2024 di Enrico Pagliarini. Benvenuti o bentornati, eccoci di nuovo insieme per questa nuova puntata di 2024. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì tra le 22 e le 23, domenica 13 e 30 a 14 nella nostra mini replica domenicale. In questa puntata ci occuperemo di sharing economy, della economia della condivisione, così si chiama. Un fenomeno che conosciamo già da tempo ma che è esploso e comunque sta crescendo molto grazie alla tecnologia. Parleremo di trading automatico, cioè del ruolo che il software oggi ha sui mercati finanziari, e anche in questo caso stiamo parlando di un fenomeno in forte crescita. Questo è altro tra poco a 2024, adesso in breve le nostre notizie selezionate durante la settimana. Digital News. In attesa dell'inizio del processo il 22 marzo, la vicenda che contrappone Apple e l'FBI è motivo di numerosi commenti. Tutte le aziende della Silicon Valley hanno fatto fronte comune, quelli che capiscono come funziona la tecnologia stanno mediamente e normalmente dalla parte di Apple, e anche l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dice che le autorità americane devono essere molto prudenti perché obbligando Apple a fornire una sorta di passepartout per uno smartphone si rischia di aprire un vaso di Pandora che potrebbe avere implicazioni estremamente dannose per i diritti umani di milioni di persone, inclusa la loro sicurezza fisica e finanziaria, spianare la strada a governi autoritari e hacker criminali in tutto il mondo. Microsoft ha cominciato ad accettare preordini per gli HoloLens, gli speciali occhiali per realtà aumentata. Per il momento solo gli sviluppatori americani e canadesi iscritti all'apposito programma potranno acquistare la Development Edition, quindi la versione per gli sviluppatori degli HoloLens, a $3,000. Comunque parliamo di un prodotto nuovo, quindi insomma un prezzo sicuramente corretto. Allora, ricordiamo che la realtà aumentata non va confusa con la realtà virtuale, di cui si parla molto negli ultimi tempi. Questi occhiali sono in grado di visualizzare degli ologrammi che vengono posizionati nella realtà nella quale siamo immersi. Quindi, ad esempio, siamo in una stanza, noi vediamo in sottofondo tutto quello che c'è nella stanza, ma questi occhiali ci fanno vedere qualcosa che va in aggiunta alla realtà. E con questi ologrammi, che ne so, di fianco a noi sul divano potremmo vedere un'altra persona, ovviamente riprodotta da questo sistema. Secondo IDC, nel 2016 la vendita di smartphone rallenterà, e dopo un 2015 che si è chiuso con 1,440 miliardi di consegne nel mondo, a più 10,4% rispetto al 2014, il 2016 si chiuderà con un incremento di appena il 5,7% a 1,5 miliardi di terminali. IDC stima che il prezzo medio di vendita calerà nei prossimi anni fino a $237 nel 2020, e anche per questo motivo crescerà la quota di mercato di Android che domina la fascia low cost. Il lettore Ultra HD Blu-ray Panasonic arriverà in Europa a partire da aprile a €799, con due film inclusi nella confezione. Perché questa è una notizia? Perché si tratta di uno dei due lettori Ultra HD, cioè quelli che permettono di vedere contenuti 4K sui televisori 4K o Ultra HD, che dir si voglia. Fra poche settimane infatti uscirà in Europa anche il lettore di Samsung ad un prezzo più basso, ma secondo alcuni esperti sarà un prodotto meno sofisticato rispetto al Panasonic. Questa settimana, come molti di voi sapranno, si è aperto il Salone di Ginevra, il Salone dell'Automobile di Ginevra, che conferma alcuni trend che commentiamo spesso anche a 2024 nel settore dell'automobile. Trend di breve, medio periodo e anche lungo periodo, ma diciamo che quello di lungo periodo sostanzialmente è quello della guida autonoma. Allora, nel breve e medio periodo, trazione elettrica, sistemi di assistenza alla guida che ti aiutano magari a frenare in caso di emergenza in modo automatico, mantengono la distanza di sicurezza, fanno altre cose del genere. Connettività a bordo del veicolo con lo smartphone, quindi lo smartphone diventa un elemento importante anche del veicolo, ma connettività anche fra il veicolo e internet, la cosiddetta connected car. In questo trend si inserisce anche un invito che è stato mandato pochi giorni fa per il 31 marzo per lanciare sul mercato il nuovo Model 3 di Tesla, che dovrebbe posizionarsi sui $35,000, e questo è il nuovo trend dei veicoli automatici. Oggi questi veicoli costano all'incirca, diciamo, dai 40.000 euro in su, e questo modello si posizionerà su una quota un po' più bassa, e in Europa c'è solo un modello tra i veicoli normali, che è la Nissan Leaf, che è posizionata attorno ai 30.000 euro, quindi solo di fatto un veicolo tra quelli delle grandi marche che è posizionato su questa fascia di prezzo. Comunque questo è un trend, cioè l'abbassamento graduale del prezzo di accesso a questo nuovo tipo di mobilità, cioè la trazione completamente elettrica. Adesso parliamo di posta cartacea, ma quella che si digitalizza. Allora, questa settimana Nexiv, che è il principale operatore postale alternativo a Poste, ha lanciato la raccomandata con giacenza digitale. Sarà disponibile da aprile. Che cos'è e come funziona? Luca Palermo è l'amministratore delegato di Nexiv. Il nostro DNA è essere una piattaforma in grado di coniugare ibrido e digitale. E guardando alla raccomandata, quello che noi lanceremo è tecnicamente la giacenza elettronica della raccomandata. Che cos'è? È semplicemente il fatto di poter ricevere a casa in formato digitale la raccomandata quando non si è a casa e quindi si è ricevuto un avviso di giacenza. L'avviso di giacenza sarà un avviso di giacenza che conterrà anche un codice PIN, e questo codice PIN consentirà di scegliere se andare in uno dei nostri uffici oppure se farsi spedire sul proprio computer la raccomandata in formato totalmente digitale, sicuro e certificato. Con tutti i valori legali del caso? Con tutti i valori legali del caso, perché questo è stato verificato in anni di sviluppo, e il nostro partner T-Notice su questo ha lavorato dal 2008 che lavora, e finalmente l'anno scorso è risultato essere pronto per andare sul mercato, e quindi il modo, addirittura viene riconosciuto anche il contenuto in maniera univoca di quella raccomandata, non soltanto la firma che è importante, ma anche il contenuto. Questo ha un costo extra rispetto all'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno? Assolutamente no, noi riteniamo che l'innovazione debba essere messa al servizio del cittadino per migliorargli la vita, e poi, se volete, un po' anche l'unico modo in cui i newcomer possono vincere una sfida sul mercato rispetto agli incumbent, che hanno dimensioni e forze economiche molto differenti rispetto alle nostre. Quindi lo considerate un servizio per distinguervi sul mercato? Sì, per distinguerci, per innovare, per far sì che si possa scegliere, e questo è un po' quello che vogliamo fare. Non conosco da questo punto di vista, cioè dal punto di vista delle raccomandate, gli altri mercati, però voi siete un operatore internazionale. Esiste una cosa del genere anche all'estero? Non esiste da nessuna parte, partendo dal presupposto che la raccomandata in Italia è un mercato che è un unico. È un unicum perché... Come dimensioni, perché la raccomandata in sé esiste anche in altri paesi. Esiste in tutti i paesi, però il 180 milioni di raccomandate che rappresentano il nostro mercato sono incomparabili con nessun altro mercato, anche nel mercato inglese, nel mercato tedesco, in cui insomma ci sono 80 milioni di abitanti in un caso e 60 nell'altro. Parliamo di decimali rispetto a quelli che ci sono nel nostro mercato. Quindi il fatto di poter innovare in questo mercato è molto importante. Riteniamo che questo possa essere poi un punto di partenza anche per innovare con i nostri colleghi in altri paesi europei. Il business della consegna della posta e anche dei pacchi, perché voi siete un operatore anche di e-commerce, portate a casa degli italiani molti dei prodotti che vengono acquistati, però questo è un business molto analogico. Sì. Che cosa altro avete fatto negli ultimi anni, o che cosa state facendo di digitale? Beh, allora, innanzitutto noi abbiamo investito molto su rendere la piattaforma Nexi una piattaforma in grado di coniugare fisico e digitale, integrando dalla nascita i dati che i nostri clienti ci fornivano e rendendo questi dati disponibili in vari formati, quindi con la multicanalità. Quindi adesso provo a banalizzare: arriva il dato, lo stampo, lo imbusto, lo recapito, arriva il dato, invece che stamparlo e imbustarlo, lo recapito digitalmente, dopodiché magari ne faccio una fatturazione elettronica alla pubblica amministrazione, dopodiché lo archivio in maniera elettronica sostitutiva. Il concetto è sempre un po' quello che abbiamo visto prima: semplificare la vita a aziende, pubbliche amministrazioni, utenti e cittadini. Quindi tutto deve diventare semplice, mi devo solo preoccupare di far sì che una cosa arrivi a buon fine. Ci pensa Nexiv a rendere meno complesso tutto questo processo, fisico o digitale che sia. Tutta questa parte dovrebbe in teoria diventare il vostro business dei prossimi anni, perché la consegna della posta sta diminuendo, giusto? Beh, la posta decresce a un ritmo di circa il 7% all'anno. È chiaro che noi, essendo quelli che sono arrivati dopo, devono ancora conquistarsi le loro quote di mercato rispetto all'incumbent. Però è evidente che se guardiamo al nostro futuro in maniera molto darwiniana, l'evoluzione è un'evoluzione di piattaforme ibride, di digitale e di e-commerce, dove invece l'analogico coniugato al digitale è nel DNA, nella sua nascita. E in più un'azienda come la nostra deve poter guardare l'innovazione costantemente, ecco perché i concetti di open innovation, come questo di cui stiamo parlando in questo momento, della nostra capacità di digitalizzare le raccomandate, sono elementi fondamentali, devono far parte del DNA di aziende che vogliono evolversi per non estinguersi. Adesso parliamo di soldi, tra poco ne parleremo perché ci occuperemo di trading automatico, del ruolo del software sui mercati finanziari. E negli ultimi anni è successo di tutto, ma prima uno sguardo breve ad una sperimentazione che è partita solo nell'area di San Francisco, presso alcuni ristoranti della catena di pizzerie Papa John's e McDonald's. Google sta sperimentando, allora, fino adesso Google sui pagamenti ha fallito in ogni campo, quindi non è riuscito, Google Pay non è stato un successo, ci sta provando in vari modi, però sapete che questo è un tema, quello dei pagamenti tramite smartphone, un tema su cui molte aziende stanno sperimentando, stanno investendo soldi, partendo da un presupposto dicendo lo smartphone ce lo abbiamo sempre con noi e quindi potrebbe essere una soluzione per eseguire pagamenti. Allora, questa sperimentazione si chiama Hands Free, senza mani, e si basa su alcune tecnologie. Il concetto è molto semplice: quando uno arriva alla cassa, dice allo smartphone voglio pagare con Google, il sistema riconosce la voce, quindi c'è un riconoscimento vocale molto semplice, attiva l'applicazione del pagamento. Uno deve aver associato uno strumento di pagamento come una carta di credito o di debito alla propria fotografia. Tenendo acceso il Bluetooth o il Wi-Fi ci si connette con la cassa dell'esercente, quindi dal punto di vista infrastrutturale questo richiede chiaramente un piccolo upgrade. Il cassiere vede la fotografia sulla propria cassa, ci guarda in faccia e dice ah sì sei tu, quindi autorizzo il pagamento. Chissà se funzionerà. Comunque questo è un trend ed è una sperimentazione interessante. Ci sono altre sperimentazioni che puntano soprattutto per l'autenticazione del cliente sul riconoscimento biometrico. C'è chi dice, ultimamente ho letto alcuni articoli su questo trend, c'è chi dice che la prossima password sarà la nostra faccia. Il riconoscimento facciale, che è uno strumento utilizzato da tantissimo tempo, insomma ci sono softwareini che ad esempio sbloccano il computer o anche lo smartphone con il riconoscimento facciale, e proprio perché la faccia è un elemento biometrico univoco e quindi può funzionare come l'impronta digitale, ci identifica in modo univoco, potrebbe essere utilizzata per autorizzare un pagamento nei prossimi anni. Settore molto interessante e vedremo quello che succederà. Comunque ci sono tantissime proposte, tantissimi tentativi e anche molti servizi che oggi possono essere già utilizzati nell'ambito dei pagamenti in mobilità tramite smartphone. Due terzi degli scambi azionari nel mondo, pensate, sono gestiti da software automatici. Fanno tutti i computer, tutto robotizzato. Questo è un trend in crescita che sta sta trasformando pesantemente i mercati finanziari ed è uno dei motivi di riflessione in tutto il sistema finanziario: l'importanza e il ruolo del software e dei sistemi automatici, visto che alcuni temono che i robot, ma soprattutto poi il software, perché in alcuni casi quando parliamo di robot pensiamo ad un umanoide, ma dobbiamo pensare al robot per estensione, a software che fa cose al posto degli uomini. E in questo caso diciamo che il software sta facendo già molte cose al posto degli uomini, e quindi tutti gli operatori si stanno facendo delle domande e si dovranno fare sempre più delle domande. Benvenuto a Vittorio Carlini, che è un collega del Sole 24 Ore e si occupa già da molto tempo, e io leggo spesso i tuoi articoli, Vittorio, sull'impatto che la tecnologia ha sui mercati finanziari. Benvenuto a 2024. Grazie. Diciamo già due o tre cose su quello che sta succedendo a proposito di automazione dei mercati finanziari. Ma io credo che sia importante dare due numeri. Circa il 66% dei volumi globali sulle azioni è gestito dai robot. Incredibile. Questo è un dato molto importante. E il 96% circa dei collegamenti di chi opera nel mondo del trading, delle compravendite e operazioni, è un collegamento elettronico, via elettronico. Questo per dire che il mondo delle grida, il mondo, diciamo, dei proposte di negoziazione fatte al telefono, e poi arriva la famosa corbeille dove c'erano quei personaggi che facevano quei segni strani per cui la gente non capisce tanto cosa volesse dire, è un mondo che è in via non di esiste estinzione. Più. Allora, la cosa interessante è che, ok, sui collegamenti elettronici uno potrebbe dire c'è ancora un 4% di mondo analogico, di fogli di carta o di telefonate, e quello forse può stupire. Al contrario, stupisce che ci sia il 66%, e più passa il tempo più ci si avvicina al 70, 80, 90% di compravendita che viene fatta da software automatici, dove dietro c'è l'uomo, ma in realtà poi l'uomo capisce, poi questo è il tema della discussione di oggi, capisce cosa sta avvenendo ma non segue i singoli movimenti. Sì. Questo è vero, come sempre accade, un singolo numero racconta metà della storia. Allora, quando parliamo di trader automatici dobbiamo considerare una vasta gamma di soggetti, dai famosi e noti sui giornali flash boys, cioè quei operatori che operano migliaia di volte in un microsecondo, a quelli che magari operano con automaticità ma ad un livello di velocità, che ne so, un'operazione al giorno, un'operazione al mese. È chiaro che se parliamo di volumi, l'ampiezza dei volumi scambiati è legata soprattutto al fatto che ci sono non tantissimi operatori che operano tantissimo velocemente. Il concetto mi sembra semplice. Sì. Quindi bisogna distinguere tra i volumi scambiati e quanti operatori usano i trader automatici. Se noi andiamo a vedere quanti operatori usano i trader automatici, noi vediamo che questi sono in una quota inferiore, è difficile poi quantificarli. Certo, non arrivano al 66%. Sì. Però comunque il dato del 66% è un dato importante, significativo. Il lettore, il vostro ascoltatore, deve rendersi conto che il mondo delle borse è un mondo di bit ormai, un mondo di server, è un mondo di computer, dove l'uomo è presente, ma a mio modo di vedere sempre di più sta un po' andando sullo sfondo. Sì, è un mondo dove anche i temi di cui parliamo durante 2024, cioè l'intelligenza artificiale, la capacità del software di capire cosa sta avvenendo, sta aumentando. Saluto anche Enrico Malverti, che è un analista quantitativo, così si dice in gergo, ma uno dei fondatori di CyberTrade. Benvenuto. Grazie. Che cosa intendiamo dal vostro punto di vista per trading automatico e soprattutto questi software? Cosa fanno? Cosa sono in grado di fare? Sì, per trading automatico intendiamo un software che prende delle decisioni di acquisto e di vendita al posto dell'operatore. dell'essere umano, e non solo prende le decisioni, ma è in grado anche di trasmetterle alla banca, al broker, e quindi di eseguirle al posto sempre dell'operatore. Quindi i processi, diciamo, sono due ben distinti: quella di creazione del segnale, dell'operazione, e quella di esecuzione. Sono anche due processi separati, che spesso richiedono adeguate competenze specifiche, sia appunto la parte di creazione dell'idea, e dall'altro, che dà origine alla negoziazione, e poi la parte invece di automatismo vero e proprio. Che cosa capiscono questi software? Cioè, quali sono i dati che prendono in considerazione per prendere queste decisioni? Ma al giorno d'oggi siamo arrivati al punto in cui praticamente un software è in grado di fare quasi tutto quello che fa l'essere umano, cioè e con una maggiore velocità, quindi elaborando le decisioni con innanzitutto la possibilità di stare davanti, l'operatore non può stare davanti al monitor H24, cioè 24 ore al giorno. Un software non si stanca, non ha problemi, non subisce l'emotività, non subisce lo stress, può seguire contemporaneamente tanti mercati, e le sue decisioni possono essere basate, così come su quelle dell'essere umano, dall'analisi grafica, quindi dall'analisi del comportamento dei prezzi, dall'interpretazione di numeri, come ad esempio anche dati macroeconomici, e un po' tutto quindi quello che fa l'essere umano può essere fatto velocemente da un software. Io credo, così per alimentare, gettare benzina sul fuoco della discussione, pur essendo una persona che da sempre fa trading automatico, che non verrà sostituito al 100% anche in futuro l'operatore, perché ci sono alcune cose che il trading automatico non può fare, ossia leggere il sentiment, leggere il feeling, l'intuito dell'uomo. Ecco, quindi una piccola componente di decisione lasciata all'essere umano, soprattutto magari sul quanto pesare, su quanto dare importanza all'automatismo, credo che sarà sempre nelle mani dell'essere umano. E questo lo vedremo. Di sicuro, Vittorio, un elemento che Enrico Malverti ha citato, cioè quello della emotività, è uno dei motivi per cui hanno preso molto corpo negli ultimi anni i software automatici, cioè i software in generale. Certo, tu sai che esiste questa teoria dell'homus economicus, cioè noi saremmo in teoria dei personaggi che come uomini, come persone, come donne, tendiamo sempre a massimizzare il profitto e ridurre le perdite. Poi quando Kahneman ha fatto i suoi studi, ha vinto un Nobel già negli anni 70, l'ha vinto di recente negli ultimi anni, e quindi successivamente molti anni dopo i suoi studi insieme a Tarski ha vinto il premio per l'economia, era uno psicologo, tra l'altro ha dato molto fastidio questo agli economisti, certo. Ha dimostrato che questo non avviene, cioè in realtà noi per esempio teniamo molto di più un titolo in portafoglio perché vogliamo per esempio sta perdendo, perché vogliamo ritardare la sensazione negativa della perdita, eccetera. Quindi, perché speriamo che torni su... Quello sarebbe un discorso razionale, semplicemente che perché vogliamo allontanare irrazionalmente il senso della sofferenza. E questa è una delle motivazioni per cui entrano in gioco operatori capaci come per esempio Malverti. Il tema è quello di sostituire l'uomo. Ed è un tema, una domanda che ci si fa in tanti altri settori, dove il ruolo del software, il ruolo dell'automazione di processi che oggi sono capaci di fare gli uomini o ancora oggi solo gli uomini, creerà delle tensioni nei prossimi anni, ma ne abbiamo già parlato 2024 in altre occasioni, e oggi ne stiamo parlando proprio legandolo al tema dei mercati finanziari, ma in generale al mondo della finanza. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, riprendiamo tra poco. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, mi trovate su Facebook, su Twitter, cercate Enrico Pagliarini oppure 2024. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Come sempre vi consiglio di riascoltare la nostra puntata abbonandovi gratuitamente al servizio podcast. Stiamo parlando del ruolo del software nell'automazione dei mercati finanziari. Pensate che 2/3 degli scambi azionari nel mondo sono gestiti da software automatici, robot di fatto, che fanno cose su indicazione degli uomini, ma fino a che punto poi tutto ciò è fatto su indicazione degli uomini e fino a che punto i software non riescono invece a ricrearsi un loro mondo prendendo decisioni e seguendo decisioni di altri software. Tra poco ci occuperemo anche di sharing economy, perché è stata presentata una proposta di legge per regolare la sharing economy, ma adesso appunto stiamo parlando di software automatico. A proposito di quanto i software sono capaci di interpretare quello che sta succedendo sui mercati finanziari. Vittorio Carlini. Quando si dice il computer non è in grado di valutare il sentiment e quindi di capire un po' dove il mercato sta andando, la domanda che mi pongo io è: ma se il mercato è sempre di più, e questo sta accadendo, fatto e realizzato da robot, questo sentiment alla fine, per forza di cose, sarà sempre di più una derivata di un'attività robotica, non di un'attività umana. Quindi anche questo messaggio del non sarà in grado, sì, magari non sarà in grado, ma quella parte che invece sarà in grado sarà perdente, perché in realtà la gran parte del mondo finanziario, di un mondo delle azioni, si muoverà su dei meccanismi che non sono sentiment umano. E questo è per esempio uno dei grandi delle accuse che si possono fare a queste tipologie di meccanismi, che è un mondo che si autoalimenta e diventa, certo, autoreferenziale. Sì, questo è un tema molto interessante, cioè il sentiment è altro ed è un sentiment fatto dalle macchine, quindi le macchine potrebbero tranquillamente interpretarlo perché sono loro che lo fanno. Sì. Senza correre così troppo in avanti, ma poi ci torniamo su questi temi che sono molto interessanti, stando all'oggi, possiamo fare un esempio di come funziona una compravendita automatica, anche facendo riferimento a quel mondo, da un certo punto di vista affascinante, che è l'high frequency trading, cioè quel trading automatico che sfrutta proprio le capacità dei computer e delle reti internet di essere veloce, molto più veloce dell'uomo. Sì, al lato pratico vengono utilizzati dei software basati su linguaggi di programmazione anche di uso comune, utilizzati anche in altri settori e ambiti di attività come il C#, il C++, che traducono determinate condizioni. Se si verificano determinate condizioni, allora il software prevede determinate reazioni, e tra queste reazioni ovviamente c'è l'acquisto oppure la vendita oppure la ricopertura, la chiusura di una posizione. Ci sono diverse situazioni che sono testate, codificate, testate statisticamente sui dati storici, e tra queste condizioni ci possono essere sia componenti dell'analisi tecnica, diciamo così, cioè quindi osservazione di grafici, supporti, resistenze, pattern invece di breve termine, cioè configurazioni grafiche, anche queste che hanno un comportamento ricorrente nel tempo, che possono essere analizzate nei software high frequency, che fanno negoziazione velocissima fino a un minuto, sotto al minuto, anche molto sotto al minuto, tick by tick. Millesimi. Sì, come velocità di esecuzione si parla di microsecondi, come analisi del grafico si scende, si va ad analizzare tick by tick, cioè da uno scambio all'altro. Sì. Giusto per fare un esempio, quello che tu dicevi è: se un titolo, una condizione, ma poi ce ne sono mille di condizioni, se un titolo supera, che ne so, i 12 euro, vendi o compra. Esatto. Il vantaggio del software è che di queste condizioni gliene puoi mettere dentro 8000 e lui ci mette, esatto, pochi secondi. Esattamente, ha una velocità di calcolo, di elaborazione che l'essere umano ovviamente non può avere, quindi reagisce a determinati comportamenti e andamenti del mercato in modo rapidissimo. Sì. Due parole le spendiamo sul high frequency trading, cioè il trading, quindi la compravendita di azioni ad alta frequenza. Sono operatori molto grandi che investono un sacco di soldi. Che cosa fanno? E soprattutto dove sono? Come funzionano? Sì, è il trading automatico esasperato in termini di velocità, quindi si cerca di prendere piccolissimi movimenti di prezzo, esempio compro a 10.01 per cercare di rivendere a 10.02 guadagnando proprio su un centesimo di mercato del movimento del prezzo, e per fare questo devo investire grosse masse monetarie per non subire il costo, ovviamente, perché ci sono anche gli operatori grandi che pagano commissioni ridottissime, ma comunque le pagano. E quindi è tutto esasperato in termini di velocità. Per fare questo, per realizzare un'architettura di questo tipo, occorrono grossi investimenti in hardware e in software, staff di ingegneri, ad esempio la Goldman Sachs e le grosse banche americane hanno degli staff di ingegneri molto, molto grossi per poter studiare gli algoritmi di HFT, come vengono detti high frequency, e i server per poter eseguire gli ordini di trading automatico vengono posizionati adiacenti alle borse, in modo da che anche la velocità proprio di invio dell'ordine alla borsa sia ridottissima. Quindi anche la latenza, cioè anche se parliamo di fibra ottica, esiste comunque un tempo per il fotone da andare da una parte all'altra e poi tutta una serie di elaborazioni da un capo all'altro della rete, quindi per essere più veloci, addirittura per essere più competitivi, si sta di fianco, cioè nello stesso locale dove c'è la borsa, che è incredibile. Sì, c'è un'esasperazione notevole. Sì, Vittorio. Ma io volevo aggiungere una cosa su quello che diceva Malverti riguardo alla high frequency, sempre poi in un'ottica, chiamiamola un po' così, critica. Un elemento, avete parlato di diciamo grandi soggetti, grandi investitori. Sì, questo è vero, però facciamo attenzione. Un conto è l'investimento, che deve essere molto importante per realizzare queste tipologie di software, queste tipologie di approcci, però non è, per la modalità con cui questi soggetti operano, richiesta una grande patrimonializzazione della società. Mi spiego. Gli high frequency, proprio perché operano con migliaia di operatività in apertura, per semplificare i nostri ascoltatori, col segno più o segno meno, cioè andando in acquisto e in vendita, ne fanno tantissime, ma tendono ad avere un valore netto pari allo zero, perché sennò sarebbe complesso. Dovrebbero avere, per requisiti regolamentari, per questioni anche normative, alle spalle un patrimonio, perché investono, molto, molto grande, grosso. Sì. Loro invece tendono, alla chiusura della giornata, ad andare verso lo zero. Questo è uno dei grossi problemi che hanno, che possono creare questi fondi. Perché? Perché nel momento in cui la macchina sbaglia, e sbaglia, perché è capitato, vi ricordo il flash crash del maggio del 2010, se c'è una problematica di questo tipo, il fatto di avere una piccola patrimonializzazione, da un lato implica che flash boys alle volte sono costretti a una direzione proprio perché non hanno patrimonio alle spalle sufficiente, che è quasi obbligata, e quindi possono creare instabilità sul mercato. E il secondo punto è che se beccano una direzione sbagliata possono fallire, ma alle spalle non sono così grandi, non hanno questa grande patrimonializzazione che può coprire queste perdite. Questo è un tema, secondo me, molto importante. L'altro elemento è, l'ha accennato correttamente Malverti, è quello dell'investimento. Bisogna tener conto che si crea un'asimmetria tecnologica, cioè ci sono tanti operatori che magari sono bravi, il famoso sentiment di cui parlavamo prima, che sono capaci di capire la singola storia dell'azienda, perché magari si leggono i bilanci, perché magari incontrano il manager, però poi vengono, come dire, surclassati dal fatto che, proprio perché non hanno alle spalle la possibilità di fare questi enormi investimenti in tecnologia, non riescono ad operare come loro vorrebbero. E questo, in un mercato che, a mio modo di vedere, dovrebbe essere un modo alternativo per un'azienda di trovare, rispetto alle banche o ad altri soggetti, dei soldi per finanziare la propria crescita, a mio modo di vedere è un problema. Questo è interessante, condivido tra l'altro, ma i regolatori, quindi le banche centrali, ma non solo, anche le autorità che dovrebbero controllare i mercati, sono tecnologicamente capaci di interpretare questo mondo? quindi magari stanno anche intervenendo? Allora, c'è un forte futuro intervento da parte della MiFID 2, che dovrebbe entrare in vigore nel 2017, e poi vediamo se le lobby finanziarie faranno in modo che l'applicazione venga diciamo un po' rallentata. C'è tutta una serie di normative, per esempio rispetto MiFID 2 è una normativa europea o internazionale? È europea. Sì. È una direttiva europea che fa seguito alla MiFID, chiamiamola 1, che è quella che è stata entrata in vigore per esempio in Italia nel 2007, che a mio modo di vedere ha dato un po' il via libera a tutta questa esplosione del mondo tecnologico, con il superamento della concentrazione degli scambi, tante cose. Insomma, noi abbiamo abbracciato, facendolo in maniera semplice, il modello anglosassone. Prima avevamo un concetto di borsa più come borsa che ha una valenza pubblica. Abbiamo voluto abbracciare, per tanti motivi, il sistema della concorrenza anglo-americana. Questa MiFID 2, che è una direttiva europea, introduce tutta una serie di strette regolamentari rispetto ai cosiddetti flash boys. Adesso è inutile qui stare a spiegare perché diventa troppo tecnico. È giusto quello che dici tu. Io ho dei dubbi perché credo che uno dei grossi problemi sia che le norme arrivano sempre a inquadrare, a sanzionare una situazione che ormai già quasi non esiste più, perché il regolatore ha difficoltà a tenere il passo dell'evoluzione tecnologica. È nella natura delle cose. Qui bisognerebbe trovare dei meccanismi tecnologici o dei meccanismi di funzionamento, di microstruttura dei mercati, che permettono di limitare, a mio modo di vedere, in alcuni casi, faccio riferimento ai titoli di Stato italiani che rappresentano, scusate, non solo italiani, ma del debito pubblico, sì, che rappresentano il debito pubblico di un paese, quindi le nostre pensioni, la nostra storia, una nazione, dicevo, dei meccanismi che limitano le possibilità di operare a ribasso o comunque di speculare su queste tipologie di asset. Quella è la strada. Ben vengano le strette regolamentari, ma io ci credo un po' poco. Sì. Malverdi, tornando alla tecnologia, questi software, qui entriamo anche nell'ambito della cosiddetta semantica, intelligenza artificiale, fino a che punto riescono a capire e interpretare? Perché io so che ci sono aziende che almeno dichiarano, poi non si sa se sono capaci o meno, di saper leggere le notizie addirittura. Sì, per certo leggere le notizie quando si parla di dati concreti, come possono essere dati macroeconomici, dati di bilancio, vengono letti, tutto quello che è numero viene letto agevolmente da un trading system, da un sistema di trading automatizzato, e tradotto in reazioni, azioni quindi sul mercato, che sì, possono essere di compravendita, sì, di acquisto, cioè, o di vendita. Stiamo dicendo che così come io apro un sito internet sul computer, questi software riescono a capire, guardando, leggendo le notizie, se che ne so, un'azienda ha fatturato X e magari il fatturato è aumentato oppure diminuito. Sì, un software può riuscire a fare anche questo e tradurlo in un'operatività di borsa. Quindi c'è uno sviluppo notevole di tecniche operative, perché una volta si era partiti semplicemente dalla classica analisi tecnica, e adesso si sta andando verso direzioni sempre più sofisticate. I risultati su certi tipi di trading system basati sulla semantica, ancora non c'è una letteratura che dimostri se sono migliori o peggiori di strategie basate su un approccio un pochino, diciamo, più diffuso, che è quello basato su dei pattern di prezzo, quindi configurazioni statistiche ricorrenti del mercato, però le direzioni oramai sono queste. Solo una domanda, questo tipo di software riesce anche a capire notizie dove non ci siano numeri? Mi spiego, faccio un esempio che ci siamo fatti prima mentre chiacchieravamo prima di iniziare la registrazione. Se la Coca-Cola annuncia che venderà la Fanta alla Pepsi-Cola, qui non ci sono numeri, quindi il software non riesce ad andare a interpretare fatturato e associarlo ad un numero, però un umano capirebbe il significato di quella notizia. Il software cosa fa? Sì, il software, ci sono delle società che stanno portando avanti degli studi di semantica per poter interpretare anche questo tipo di notizie. Io sono leggermente scettico ancora sulla validità di un approccio di questo tipo, perché sono abituato a ragionare sempre sui numeri e sulla statistica, e penso che statisticamente ci siano meno dati su cui ragionare. E quindi la validità può essere un po' meno probante, appunto, in base alla statistica. Però è una realtà che sta fiorendo. Vittorio. Ma volevo aggiungere che queste tipologie di software, per quello che mi è stato dato la possibilità di un po' analizzarli e vederli, quali sono quelli che si stanno sviluppando? Banalmente sono le società più avanzate dei soggetti che magari per anni hanno creato dei cosiddetti link tra le varie parole, creando una sorta, chiamiamola, di database, di libreria, come se ci fosse una libreria enorme, non di tutte le possibili parole, ma dei elementi centrali di queste parole. Le principali correlazioni. Correlazioni. E in questo modo, assumendo sempre più alle spalle il software, un database che ti permette di correlare fra di loro il soggetto con il predicato verbale, con il complemento oggetto, alla fine, io credo, tra un po' di tempo, se non già adesso, perché poi è molto difficile riuscire a parlare con questi soggetti, perché sono molto molto stretti nelle... immagino che siano segreti. Sì, sì, assolutamente. Sì. Secondo me si arriverà anche a quello. Può essere giusto quello che diceva Alberti coi Prodest, cioè se effettivamente è un vantaggio competitivo così forte, però questo è un ennesimo segnale, cioè un ennesimo segnale che i tuoi radioascoltatori, secondo me, devono capire. La borsa non è più un mondo fatto di grida, ma anche, pensaci un attimo, le immagini che pubblichiamo anche sui giornali, vediamo ancora a Wall Street questi che segnalano davanti ai computer. Purtroppo, oppure meglio per altri, non lo so, adesso non voglio entrare in una polemica, però quel mondo lì veramente, al di là delle capacità o meno del software, sta sparendo. È un mondo che sta sparendo ed è un mondo sempre più complesso, sempre più difficile da capire. A me piacerebbe far passare questo messaggio. Cioè, noi continuiamo a ragionare nei confronti di una borsa come se fossimo fermi alla fisica di Newton, cioè c'è un nesso di causa e effetto. Ci sono dei motivi. Okay. E la classica domanda che mi viene fatta è: la borsa cade, perché c'è questo motivo? E allora bisogna trovare una causa comprensibile a me, a te, alla persona al bar, piuttosto a quella che passa per strada, per spiegare perché sta scendendo, che deve essere negativa. La metafora è invece che noi siamo entrati in un mondo di fisica quantistica, quindi questo meccanismo così deterministico di causa-effetto non c'è più, perché è talmente complesso, ci sono talmente correlazioni, per cui tu hai dei movimenti che non sono legati a una notizia negativa se va giù o positiva se va su, magari invece una notizia negativa, ma è negativa per una quota di mercato che era correlata con un'altra quota di mercato, per cui quella notizia è positiva e quindi si sale, oppure magari c'erano degli operatori high frequency o non high frequency che su quella notizia erano molto esposti a ribasso, quindi visto che era negativa per molti ma non per tutti, la grande maggioranza che muoveva sulla negatività vince rispetto a quelli sul positivo, e quindi pur essendo una notizia negativa, magari ricoprendosi, chiudendo le posizioni, quelli che ci avevano scommesso, il titolo sale. Questo è il messaggio che voglio passare. Chiarissimo. Malverti, per concludere, stiamo parlando di, nella grande famiglia del software automatico, cioè del trading automatico, di soli professionisti. Ho capito che chi fa high frequency trading sono, oltre che professionisti, grosse società che hanno forti capacità di investimento, tecnologia, ma nel più vasto fenomeno delle compravendite automatiche ci sono anche c'è stato un periodo in cui la compravendita dal proprio computer, cioè quando è arrivato internet con i propri computer, uno dei grandi, delle grandi conquiste era poter fare acquisti e vendite dal proprio computer di casa. In questo caso come sta cambiando? Non è una realtà il trading automatico che è di dominio solo degli istituzionali esteri, anzi io mi occupo di questo da ormai 15 anni e sto vedendo come il fenomeno sia in aumento anche tra il pubblico di privati risparmiatori. Appunto nel 2000-2001 ci fu il fiorire del trading online, si parlava già di algoritmi, di trading system, ma era proprio una nicchia riservata a poche persone specializzate. Dal 2009-2010 in avanti, poco alla volta, si sta vedendo un aumentare di diffusione di questo tipo di approccio anche tra il pubblico dei risparmiatori. Ci sono tanti seminari in Italia, alcuni tenuti periodicamente anche in borsa italiana, in cui ci sono diversi tantissimi risparmiatori che vengono ad ascoltare e a documentarsi su questo approccio. Anche qui c'è il problema del cybercrime, che voi vi chiamate cyber trade, ma c'è un fenomeno che si chiama cybercrime. Che... Sì, anche questo può essere un problema da affrontare. Noi abbiamo tutte le precauzioni del caso per cercare di vietare il più possibile l'accesso ai nostri server, che non ci possono essere intrusioni, e riteniamo di avere tutti i diciamo delle buone protezioni. Poi sappiamo ci sono degli hacker che cercano di introdursi anche nel computer della NASA, quindi... Esattamente. Ringrazio Enrico Malverti per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie. Grazie anche a Vittorio Carlini. Vittorio, grazie, buon lavoro anche a te. Grazie. Adesso parliamo di sharing economy. Allora, per 3 mesi sul sito www.parlamentari.org sarà in consultazione pubblica, o comunque lì c'è un link, ma parlamentari.org è facile da ricordare, sarà in consultazione pubblica una proposta di legge sulla sharing economy nata all'interno di dell'intergruppo Innovazione. Ci sono parlamentari di tutti gli schieramenti. Stiamo parlando di economia condivisa, un fenomeno che appunto è conosciuto come sharing economy, che è cresciuto negli ultimi anni grazie alla tecnologia e soprattutto agli smartphone. Molte cose che facciamo e che mettiamo all'interno del territorio della sharing economy le facciamo perché ci sono gli smartphone, perché c'è internet, perché ci sono le applicazioni. Allora, ci sono 2 grandi famiglie della sharing economy: ci sono società che condividono beni o servizi, ad esempio il bike sharing, il car sharing, cioè una società che compra le automobili, mette le automobili in una città, e devo dire che sul fronte car sharing, bike sharing, Milano è uno degli esempi mondiali del successo di queste tecnologie e di queste novità. Quindi società che compra le automobili, sono tecnologicamente dotate di GPS, connessione ad internet, io arrivo sul mio smartphone, vedo dove si trova l'automobile più vicina, la prenoto, passeggio magari per 5 minuti, arrivo davanti all'automobile, la sblocco, la uso per i minuti che mi servono e poi pago attraverso internet. Molto semplice, molto comodo, un grande successo, soprattutto nella città di Milano, ma anche in altre città italiane e in tutto il mondo. Poi c'è una parte importante di questo fenomeno dove vengono condivise cose o servizi di proprietà degli utenti. Ad esempio, ed è l'esempio più facile che si fa, la mia casa che affitto quando non ci sono, oppure la mia seconda casa. La cena che preparo a casa mia, invito gente a cena, magari io sono molto bravo a far da mangiare, invito a cena a casa mia persone anche sconosciute tramite applicazioni, tramite social network, e queste persone contribuiscono alle spese. Oppure io che vado con la mia automobile da Milano a Roma e in cambio di un contributo do un passaggio ad una o più persone che si prenotano tramite una piattaforma, e quindi queste piattaforme gestiscono sostanzialmente l'incrocio tra la domanda e l'offerta di persone che mettono in condivisione beni, quindi potrebbe essere la casa o l'automobile o anche servizi. Io che chiamo gente a casa mia, oppure io che vado a casa di altri a far da mangiare, ad esempio. No, questi sono solo alcuni esempi. Allora, in alcuni di questi casi si rientra solamente da una parte della spesa che io faccio, in altri c'è un evidente guadagno, perché se io la casa delle vacanze oppure una casa che io ho in una grande città turistica l'affitto per 10 mesi all'anno, ci guadagno magari un sacco di soldi. Allora, è stata fatta una proposta di legge che sarà tra l'altro in consultazione pubblica per 3 mesi, tutto è migliorabile, anche questo potrà essere migliorato, firmata da vari parlamentari di vari schieramenti. La scritta e la prima firmataria è Veronica Tentori, che è una deputata molto giovane del Partito Democratico. Benvenuta. Grazie, ciao a tutti. Allora, da un po' che ne parlate di sharing economy all'interno dell'intergruppo Innovazione, ma per quale motivo avete fatto questa proposta di legge? Noi, diciamo, siamo partiti con un'ambizione abbastanza alta. Vorremmo che questo nuovo tipo di economia si integrasse e quindi diventasse complementare al mercato tradizionale, perché riteniamo che questo vada ad ampliare l'offerta per il consumatore e quindi ad ampliare il mercato sostanzialmente, e non sia in contrapposizione con i modelli che tutti conosciamo, con i modelli tradizionali. Per cui questa è l'ambizione che sta dietro a queste prime regole che noi abbiamo voluto introdurre, ma non si tratta di imbrigliare ovviamente il fenomeno. Non vogliamo arginare la creatività, che ovviamente è alla base dell'innovazione e anche alla base di queste piattaforme. Sì, tu hai citato l'intergruppo per l'innovazione, che è stato creato da Stefano Quintarelli, che è qui con noi. Ciao Stefano. Ciao Enrico, un saluto a tutti gli ascoltatori, non solo da me, tanti altri colleghi. Beh, diciamo che uno dei semi iniziali sono stati messi da te. Allora, tu adesso fai parte del gruppo Misto e sei il presidente dell'intergruppo Innovazione. Ma in realtà è un'associazione abbastanza lasca, non abbiamo ruoli formali. Molto digital. Molto digital, sì. Beh, da tuo punto di vista, perché è necessario normare questo fenomeno? Beh, intanto per promuoverlo come prima cosa, perché noi, come diceva giustamente Veronica, cerchiamo di fare in modo che questo fenomeno possa crescere e integrarsi con l'economia tradizionale. In secondo luogo, perché comunque sono attività che esistono e nell'ambito delle tutele dei consumatori che sono già previste e della tutela della concorrenza che sono già previste, forse certi provvedimenti possono essere sproporzionati rispetto a chi fa un'attività che è solo casuale e sporadica ad integrazione del reddito. Ed è molto importante che ci sia, la tecnologia ci mette a disposizione delle possibilità di integrare reddito. In questo periodo di economia un po', diciamo, non certamente in forte fiorente, espansione, sì, fiorente, il fatto di favorire che ci siano un inquadramento sì, regolamentare che non sia penalizzante per queste, quindi che eviti gli obblighi che altrimenti ci sono nelle regolamentazioni specifiche di settore per ognuna di queste categorie di intermediazione, di messa in condivisione di servizi, tempo, risorse, eccetera, crediamo che sia una cosa che possa aiutare. Veronica, che cosa dice questa proposta di legge? Ricordiamo, è una proposta, adesso tra l'altro è stata messa a disposizione dei cittadini per proporre degli emendamenti, dei suggerimenti, delle modifiche, quindi questo è anche un fenomeno interessante. Però, diciamo, ad oggi qual è la proposta? Sì, giustamente come dicevi, non abbiamo la presunzione di avere la verità in tasca con questa proposta, per questo abbiamo aperto la consultazione online, anche perché penso che siamo più o meno i primi in Europa che cercano di dare un quadro di riferimento sul fenomeno sharing economy senza entrare nella regolamentazione di settore, e quindi giustamente siamo aperti a qualsiasi suggerimento se possiamo migliorarla. Ok, ad oggi cosa dice però questa proposta? Allora, inizialmente la proposta va ad individuare quelli che sono i soggetti, diciamo, che possono essere interessati, perché abbiamo dovuto cominciare senza pensare di poter definire in toto cosa sia la sharing economy, perché come anche un fenomeno molto hai fatto degli esempi tu iniziali, sì. Il bike sharing, il car sharing, cioè, ormai comprende veramente tantissime cose, per cui abbiamo dato delle definizioni generali che potessero permetterci però già di avere un'idea di chi sono i soggetti che sono interessati. E la cosa interessante è che prevediamo un'interlocuzione con un'autorità, che è l'antitrust. Abbiamo scelto l'antitrust perché in Italia è proprio l'antitrust che va a tutelare la leale concorrenza, ma anche il consumatore, sì, che sono due delle finalità che noi ci siamo dati con questa legge. Abbiamo quindi previsto un percorso però di interlocuzione, diciamo, propositiva tra l'autorità e le piattaforme, proprio per lasciare la flessibilità che ci permette di non imbrigliare la creatività che sta dietro alle piattaforme stesse. Ognuna è un po' a sé, ognuna può inventarsi una propria policy, e quindi dare dei paletti troppo stringenti su quella che deve essere appunto il documento di politica aziendale avrebbe potuto essere un ostacolo. Sì. Okay. Invece in questo caso noi permettiamo che la piattaforma possa fare una proposta di documento di policy all'autorità, l'autorità eventualmente proporre modifiche, integrazioni, segnalazioni, e quando si giunge appunto ad un'approvazione da parte dell'antitrust di questa policy, rientrare nel registro nazionale delle piattaforme di sharing economy che andiamo proprio ad istituire attraverso la legge. Okay. È un primo passaggio importante, e che è un vantaggio per tutti, sia per le piattaforme, che in questo caso possono avere una discussione preliminare con l'autorità e quindi in un certo senso sono autorizzate di fatto. Esatto, sì, avere sì, una sorta di certificazione. Dall'altra parte il consumatore, che comunque vedendo un registro che è già stato vagliato dall'antitrust, essere più sì, sicuro, okay, anche nell'utilizzo del servizio, e ecco, invogliato poi, ad utilizzare le poi piattaforme. Poi arriviamo al fisco, però se posso, Stefano, su questo, prego. In alcuni paesi è stata fatta la scelta di entrare settore per settore a disciplinare con regolamentazione di settore. La nostra proposta invece prevede questo documento di policy dove sono le piattaforme stesse in qualche modo a ritagliarsi quelli che sono gli ambiti che ritengono corretti, proporzionali, sì, eccetera. Quindi immaginiamo che ci saranno anche associazioni di categoria che potranno nascere e che potranno, quindi una sorta di regolazione leggera che però nel contempo mette le piattaforme in un quadro di certezza normativa, no? Che quindi in qualche modo le scuda rispetto a possibili interventi di pezzi di giustizia o altro che invece le assoggetterebbero alle regole dei settori tradizionali e quindi molto più stringenti. Sì. Quindi in realtà per la piattaforma è un grande vantaggio. È un grande vantaggio. Però ti faccio una domanda, scusa Stefano. Se io sono una piattaforma vietnamita, una bella startup vietnamita che dice io faccio una piattaforma per la condivisione della casa, ok? Quella più famosa e più nota è Airbnb, che è americana, però poniamo questa ipotesi. Ammettiamo che negli altri paesi europei si faccia più o meno la stessa cosa. Cioè io piattaforma dovrei fare una certificazione per ogni paese europeo o addirittura altri paesi in giro per il mondo? Cioè, questa è un'ottima domanda. In Europa si sta lavorando e si sta pensando a dare delle linee guida da cui poi uscirà probabilmente una regolamentazione, una direttiva nel tempo. Quindi siamo in una fase ancora iniziale. Noi speriamo che con questa nostra proposta di dare un contributo anche a questa fase di riflessione che c'è in Europa. No, poi naturalmente quando arriverà una regolamentazione europea ci dovremo adeguare. Sì. Però il fatto che non ci sia una regolamentazione europea non è che stiamo lì ad aspettare l'oracolo. No? Voglio dire, anche su altri esempi, altri paesi hanno fatto delle norme che in qualche modo poi vanno a influenzare quella che è la regolamentazione comune. Quindi noi crediamo che dare una regolamentazione leggera, definita in comune con le piattaforme, che dia tutela quindi agli operatori e ai consumatori, che consenta di ricavare uno spazio di armonizzazione rispetto agli interessi economici e alle questioni fiscali, crediamo che una cosa di questo genere possa essere un valido contributo alla discussione a Bruxelles. Se una piattaforma non si registra, cioè non presenta una policy all'authority ma continua a operare, essendo via internet mica qualcuno mi vieta di rivolgermi a quella piattaforma, cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che di essere soggetta alle normative tradizionali piuttosto che avere una richiesta dell'antitrust di aderire al registro. Cioè a tuo rischio e pericolo? Diciamo che non è che cambiamo il quadro della normativa di settore, per cui le norme di settore continuano a valere e se tu decidi che non ricadi all'interno di quest'ambito ci sono le normative di settore tradizionali che però rischiano di essere molto più stringenti, per cui è un vantaggio. Sì. Veronica, potrebbero esserci, oltre a questa regolamentazione, potrebbero esserci delle novità anche per settori? Ad esempio, a San Francisco è stato deciso che Airbnb non possa, cioè chi si rivolge ad Airbnb non possa affittare la propria casa per più di 90 giorni all'anno, per non fare concorrenza sleale, chiamiamola così, agli alberghi. Sì, allora, noi con questa proposta di legge vogliamo fornire una cornice quadro, quindi che va a toccare trasversalmente il fenomeno della sharing economy, senza entrare adesso nel merito della regolamentazione di settore. Sì. E abbiamo fatto proprio per scelta, perché vogliamo avere un approccio di sistema, cioè crediamo sia importante alla base avere un approccio di sistema, se no entreremo a discutere settore per settore su quello che devono essere gli orari degli affitti piuttosto che dei trasporti, e diciamo rischieremo di incastrarci poi lì senza avere prima un approccio sistematico. Però non abbiamo eluso l'argomento, infatti abbiamo previsto che sempre facendo riferimento a quella che è la segnalazione che l'antitrust fa annualmente al Ministero dello Sviluppo Economico, proprio perché avrà contezza anche di quello che sta avvenendo nel mondo sharing economy, sulla base di quello che abbiamo detto prima, cioè che le piattaforme dovranno avere un'interlocuzione con l'autorità, potremo poi, in base ai dati che avremo raccolto, intervenire all'interno della legge annuale sulla concorrenza anche sulla normativa di settore. Sì, Stefano? Sì, questo sia in chiave di tutela della concorrenza che di promozione della concorrenza, che anche in chiave di promozione proprio della sharing economy. Una cosa importante da dire è che, e forse non si è colto bene all'inizio, questa nostra proposta si rivolge non a tutto quello che può essere sharing economy, anche perché non esiste una definizione univoca di sharing economy. Sì, sì. No, noi ci rivolgiamo a quelle intermediazioni fatte da privati che in qualche modo fanno integrazione del loro reddito, no? Per questo abbiamo anche questa soglia per cui diventa molto vantaggiosa come contributo. No, e questo per dire che alcuni tipi di servizi, tu citavi prima il bike sharing con cui sei venuto, beh, c'è in comune solo lo sharing come parola, no? Perché quello è un servizio commerciale offerto da un operatore in partnership con i comuni, no? Piuttosto che il car sharing, di nuovo ci sono degli accordi tra degli operatori, cose, però sono degli operatori economici, non sono soggetti che mettono a disposizione e in condivisione risorse parzialmente utilizzate o loro tempo come integrazione del reddito. Quindi sgombriamo il tavolo da possibili equivoci. No, non esiste una definizione univoca di sharing economy, noi non pensiamo di disciplinare tutto il mondo, ci limitiamo ad intervenire su quello lì che ci sembra particolarmente importante in un momento di economia lenta e che quindi può essere utile per i cittadini. Sì. A proposito del fisco, perché questo è uno dei grandi problemi, effettivamente si generano redditi che in questo momento o il cittadino, anche con un po' di creatività, dichiara, oppure sfuggono al fisco. Ecco, da questo punto di vista cosa dice questa proposta di legge? Allora, abbiamo introdotto un sistema molto semplice. La piattaforma agirà da sostituto d'imposta e quindi detrarrà un'aliquota del 10% su tutte le transazioni alla fonte. Abbiamo individuato una soglia di 10.000 euro. Al di sotto di questa soglia, appunto, viene applicata questa aliquota agevolata del 10%. E poi se ci saranno redditi che andranno a sforare questa soglia, faranno cumulo con gli altri, per cui si pagherà l'aliquota quando faccio la dichiarazione dei redditi. Esatto, certo. Anche in questo caso però, se una piattaforma sta all'estero, cosa succede? Come fa a fare il sostituto di imposta? E lo fa. Lo fa dall'estero? Sì. Però torno al punto, ad uno dei punti di prima. Se una piattaforma sta all'estero e se ne frega di questa normativa, io posso continuare a utilizzare questa piattaforma senza averne i vantaggi, senza averne i benefici, in quanto a me cittadino qual è il vantaggio principale? Beh, da una parte che hai una tutela e dall'altra parte che hai, se invece sei un offerente di servizi, che hai uno sgravio fiscale. Quindi alla fine noi speriamo che il mercato premierà quei soggetti che saranno compliant in qualche certo modo, che si adegueranno a questa normativa. E poi se tu lo fai e non rientri in questo documento di policy, sarai soggetto alla normativa ordinaria e troverai che magari il giudice X ti sanzionerà in qualche modo rispetto alle normative applicabili, come è già successo con altri operatori. Quindi è un percorso che è un vantaggio per tutti. C'è una cosa da dire, secondo me, importante. Cioè, anche questo voler differenziare tra chi svolge un'attività, diciamo, di integrazione al proprio reddito, quindi un'attività non professionale, e invece chi poi svolge l'attività a livello professionale, è interessante perché ci permette di valorizzare quella che è la parte, diciamo, più social anche della sharing economy, che non è soltanto un fenomeno appunto economico, ma anche sociale, sì, perché sì, certo, il, certo. Il tema della condivisione di un proprio bene, di un proprio servizio, permette alle persone di mettersi in relazione tra di loro, quindi di fare socialità. Tanti lo fanno per quello, per esempio chi fa chi organizza cene fa social eating, cioè lo fa perché appunto vuole infatti come... c'è questa dimensione anche importante a livello sociale della sharing, e questo vorremmo valorizzarlo. Certo, ma ecco, da questo punto di vista, come avete affrontato il tema della integrazione al reddito, ma per un servizio dove io non guadagno, che ne so, tu mi paghi BlaBlaCar, facciamo un esempio molto, molto semplice, in quel caso tu contribuisci alle spese mie, quindi non so se può essere considerato un vero guadagno sul quale pagare delle tasse. No, infatti in quel caso si tratterebbe di un rimborso spese. Quindi non rientra in questa fattispecie? No, sulla parte fiscale semplicemente la piattaforma, se si verificherà da parte dell'antitrust che non c'è un reddito per l'utente operatore ma che c'è solo un rimborso spese, non ci sarà bisogno di fare da sostituto d'imposta e dunque di applicare l'aliquota, perché in quel caso non c'è non viene generato reddito. Quindi quello dipende dalla policy che viene presentata. Esatto, dipende dalla policy. Bene. E questo qui è un esempio di come cercare di fare una regola definita per legge. La legge è una roba molto rigida, ci si mettono degli anni a farla. Definire una regola sarebbe sbagliato dal nostro punto di vista, perché ci metti degli anni a fare una cosa che poi, con un processo legislativo di revisione che dura degli anni, ti ingessa tutto un settore. Sì. Così invece abbiamo quale migliore opzione che gli imprenditori stessi che fanno queste cose non facciano le loro proposte e si accordino su un modo di dare delle regole che vadano bene sia per la concorrenza che per il consumatore. Sì. Senti, faccio un'ultima domanda, Stefano. Visto che tu fai parte del gruppo misto, quindi sei un po' indipendente rispetto agli altri schieramenti politici, e visto che sappiamo benissimo che non sono tantissime le proposte di legge che poi diventano legge, quante chance ci dai? Beh, allora i numeri, ma i numeri dicono che le proposte di legge di iniziativa parlamentare stanno intorno al 2% di quelle presentate arrivano in fondo. Quindi naturalmente molto dipenderà dal livello di attenzione che il governo, e nel caso poi di specie il Partito Democratico, visto che la prima firmataria è Veronica, deciderà di dare a questa proposta. Naturalmente noi abbiamo già fatto dei passaggi di verifica, oltre nel percorso che ha detto Veronica molto lungo, no? Dai convegni agli incontri con gli operatori, esperti eccetera, dai quali abbiamo ricavato tante idee, ci siamo anche confrontati con istituzioni, organizzazioni eccetera, quindi posso dire che l'interesse è alto. Ho risposto in politichese, la risposta vera è che non lo so. Va bene, io vi ringrazio per essere stati con noi, buon lavoro e anche in bocca al lupo. Comunque spero sì, sì, ci mancano, certo, abbiamo 18 mesi davanti, speriamo. Ma noi lavoreremo per quello. Noi lavoreremo per quello e comunque penso che daremo un contributo, che stiamo dando un contributo importante alla riflessione in Europa. Molto bene, grazie, a presto. Grazie Enrico. Ciao a tutti. E così concludiamo questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione, continuate a scriverci sia per raccontarci come ascoltate in podcast 2024, in quale momento, mentre lavorate, mentre studiate, mentre vi trasferite da casa al lavoro, mentre siete in viaggio eccetera eccetera, ma anche quale applicazione utilizzate. Potete utilizzare la nostra posta elettronica 2024@radio24.it, Twitter o anche Facebook, cercate Enrico Pagliarini o 2024. Ci risentiamo la prossima settimana, come sempre venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13.30, oppure sempre e quando volete, anytime, come si dice, via podcast.